Tengo un sorriso assai smagliante, ma la cifra non importa. Sono una persona interessante, ma la cifra non importa. Tengo passione per la vita, ma la cifra non importa. Sono una persona más linda e pulita, ma la cifra non importa. Tengo una polla muy comprante, ma la cifra non importa. Sono un instancabile amante, ma la cifra non importa. Tengo muy dinero y viaje en helicóptero, ma la cifra non importa. Soy un hombre muy sincero, ma la cifra non importa. Oh, Luciano, cos'è questa cifra? Non sé, non sé, non sé, non sé. Oh, Luciano, cos'è questa cifra? Lo dico che non sé, non sé. Tengo brillantina sulla cabeza, ma la cifra non importa. Soy sicuro che non lo fessa, ma la cifra non importa. Tengo camisa firmata alla moda, ma la cifra non importa. Soy uno che beve il limon soda. E sti cazzi. Tengo marichiones come amico, ma la cifra non importa. Soy un tipo imperativo, ma la cifra non importa. Tengo la macchina sportiva, ma la cifra non importa. Soy mucho attratto da sta chica, ah, ah, ah, ah, ah. Oh, Luciano, cos'è questa chica? Non sé, non sé, non sé, non sé. Oh, Luciano, cos'è questa chica? Non sé, non sé, non sé, non sé. Oh, Luciano, cos'è questa chica? Qua che io devo dire, non sé. Oh, Luciano, cos'è questa giga? Lo sé. Oh, Luciano, oh, Luciano. Ma io sono Francisco. Ma Luciano, soy mi. E la chica? La chica se guarda. Ecco perché alla chica non importa. Oh, e torniamo ragazzi, mentre c'è questa sfuriata finale del brano, per cercare di capire, Sbano, è successo qualcosa durante queste... Nulla di importante. Di rilevante. No, le due squadre si equivalgono un po', di conseguenza... Che è il vecchio che sta morendo? No, vecchio. Però felice. No, ma che vecchio, cioè, raga... Stai io conta... so battere, tu stai bene. Mi sa che te ne hai contato di più. Perché... sì, un po' di più di io ho contato all'aria, infatti... Io ho contato tre merde piene sul muro, le altre erano fuori. Ok, ma tre, tre merde da che parte? Dai, io guarda, devo dire che ho tolto un paio di sgommatine, ma erano scoregge, mi sono fermato a due. Due, quindi tre a due. Ah, quindi vediamo, praticamente. Vediamo se è contento il gibbone. Sì, non è. È morto il gibbone. No, gibbone. Intanto vedo, mi scuso. Devo riaprire il collegamento. Con... c'è, credo, un calcio d'angolo. Sì, assolutamente contento, 3 a 2, contento. Sì. Guarda come si agita, guarda. Bravo Peppone, bravo. No, però non tirare altra merda, basta, basta Peppone. Ok, basta, vabbè, oh. Simone lo stavi chiamando. Sì, perché lui si chiama Simone in realtà, l'abbiamo ribattezzato Peppone all'ultimo minuto. Va bene, quindi... Non so se ci sono in diretta due Marco. Bisogna conoscere per parlare. La gente non le conosce! La gente non le conosce, capito? Bisogna conoscere i veri valori della musica tecnica, rock. Ma mica parlo di Jovanotti,